I sauditi contribuirono con circa 17 miliardi di dollari e con il carburante per gli aerei. Ironia della sorte, in quel periodo l'Arabia Saudita divenne il maggior importatore di greggio al mondo. Alla fine del conflitto hanno speso 50 miliardi di dollari e vive una crisi economica spaventosa. Intanto la famiglia Saud deve fare i conti con lo scontento generale. In Arabia Saudita il vero collante sociale è sempre stata la ricchezza. Adesso che la crisi economica si fa sentire, però il dissenso si trasforma in ribellione. L'opposizione radicale islamica ha poi un altro argomento su cui far leva. 5 anni dopo la prima guerra del Golfo, Saddam Hussein è di nuovo la scusa per introdurre nel suolo saudita migliaia di soldati americani. Osama Bin Laden diventa la voce dei radicali islamici. Il 13 novembre del 95 una bomba esplode nel centro di Riyadh. Poco meno di un anno dopo, un'altra bomba esplode nei pressi di Dahran. Entrambi gli attentati hanno come obiettivo basi militari americane e dietro a entrambi c'è Osama Bin Laden. Proprio in questa congiuntura così critica, nel 95 Re Fahd ha un infarto e la gestione del potere viene affidata a un suo fratello da parte di padre, il principe Abdullah. 20 gennaio del 2000 George W. Bush diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il principe Abdullah ritiene la questione palestinese il problema principale alla base del malcontento in tutta la regione. Nel febbraio 2001, con l'elezione di Ariel Sharon a primo ministro israeliano, in Medio Oriente esplode e Bush lo sostiene pubblicamente. Gli israeliani non negozieranno mai sotto la minaccia di attacchi terroristici. Se davvero i palestinesi sono interessati al dialogo, allora chiedo al signor Arafat di dare il 100% del suo contributo per porre fine alla violenza terrorista. Sono certo che può fare molto meglio di ciò che ha fatto vedere fino a questo momento. A quel punto il principe ereditario inviò al presidente un messaggio molto duro. Risulta ormai chiaro che lei ha deciso di sostenere Sharon, senza alcun riguardo per gli interessi dei vostri amici nell'area e per i vostri stessi interessi. L'America è un paese sovrano e voi siete liberi di agire come volete. Da parte nostra, noi dobbiamo tutelare i nostri interessi. Non ci preoccuperemo quindi delle eventuali ripercussioni che le nostre scelte potranno avere su di voi. Nel giro di 24 ore, il presidente Bush rispose al messaggio del principe, spiegando il punto di vista americano rispetto a tutta la questione. Il presidente Bush parlò chiaramente di due stati, di una Gerusalemme divisa in due, di una definizione della questione dei profughi. E poi aggiunse: ma tutto ciò potrà essere fatto solo se riusciremo a fermare la violenza. A sua volta il principe rispose al presidente: questo è sicuramente un passo avanti, ma dovrete rendere pubbliche le vostre posizioni al più presto. Il presidente Bush si disse d'accordo. Tre giorni più tardi, tre aerei si schiantarono contro le Torri Gemelle e il Pentagono. E l'intero processo di pace venne azzerato. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.